storie italiane. I musicanti di Brema. Tanto tempo fa, un uomo possedeva un simpatico asino. Egli lavorava per trasportare mais al mulino. Il proprietario non era felice di quest'asino ormai vecchio. Sei un animale inutile! Non riesci a sollevare abbastanza carico e non puoi camminare in modo corretto. Signore, la mia capacità è di sollevare 4 sacchi, ma tu mi carichi con 8 sacchi. Cosa ti aspetti da me? Sto cercando di fare del mio meglio. 1, non lavori correttamente. E 2, osi alzare la tua voce contro di me. Domani ti venderò al mercato e comprerò un nuovo asino. E ora sparisci. Più tardi quel pomeriggio, l'asino era tutto solo nel granaio e parlava a se stesso del suo destino. Ho un padrone molto ingrato. Sono stato leale e faccio sempre un duro lavoro. Ho deciso di vendermi al mercato. Non so che cosa mi succederà. In quel momento arrivò la posta. Era piacevolmente sorpreso di vedere una lettera intestata a suo nome. L'asino, per curiosità, aprì la lettera. Wow! Sapevo che un giorno prima o poi l'opportunità di mostrare il mio vero talento sarebbe arrivato. Io sono il miglior cantante della città! Mia nonna aveva pienamente ragione. Io sono nato per diventare una grande stella. Andrò subito nella città di Brema. Ma cosa farò da solo? Ho bisogno di una band. Devo trovare qualche grande talento. L'asino imballò un po' di cibo e si avviò verso la strada che porta a Brema senza perdere tempo. Stava passando davanti ad una casa quando ad un tratto sentì qualcuno che gridava. Non sei in grado di fare niente! Oggi mi hai davvero deluso! Tutti i miei amici stavano ridendo di te! Tu sei una nullità! Signore, ho fatto del mio meglio! No, tu non l'hai fatto! Basta, devi accettare il fatto che sei diventato vecchio e non puoi fare niente di meglio. Sarebbe meglio per me se tu morissi. Neanche una preda hai catturato. E questa cosa non succedeva da parecchi anni. Il proprietario del cane iniziò a colpirlo. Il cane corse per la sua strada e quando uscì dalla casa vide il suo padrone chiudere la porta dietro di lui. Sembra che tu abbia avuto una lunga giornata. Alcuni giorni sono negativi. Sono sicuro che domani sarà meglio. Bravo! Devi essere sempre positivo! Aspetta un attimo! Amico, io vado a Brema! Dovresti unirti a me! Penso che questo cambierà la tua vita per sempre! Wow! Sto cercando quel tipo di opportunità! Posso suonare i tamburi? È fantastico! Puoi far parte della mia band! Certo, disse il cane e si unì all'asino. Entrambi iniziarono il loro viaggio verso Brema. Avevano percorso una breve distanza quando sentirono un grido. Cosa farò adesso? E dove andrò? L'asino e il cane non potevano restare indifferenti e si avvicinarono al gatto. Che cosa è successo? Perché stai piangendo? Cosa ti preoccupa? Gatto, possiamo fare qualcosa per te? Tempo fa io ero molto scaltra e veloce. Ero coccolata tutti i giorni, ma adesso... Dimmi, che cosa è successo? C'era un momento in cui ero la preferita agli occhi del mio padrone, ma ora... Cosa è successo? Il mio padrone mi vuole gettare nel fiume! Ma perché? Sì, perché? C'erano centinaia di ratti nel fienile del mio padrone. Ho provato a catturarli tutti, ma proprio tutti... Ma negli ultimi anni i topi sono diventati più intelligenti. Se io andavo a sinistra, loro andavano a destra. Se io andavo a destra, loro a sinistra. Se io in alto, loro in basso. Una volta su e poi in giù. Negli ultimi mesi non ho preso un solo topo, sapete? Sono una frana. Ma gatto, pensaci, magari a causa della tua età. Ovviamente no. I miei artigli sono un po' deboli. Ma io sono super forte, come vedi. Certamente. Dimmi, gatto, cosa farai adesso? Io non lo so. Ehi, guarda qui. Penso che questo cambierà la tua vita per sempre. Il gatto ci pensò a lungo. Ma io ho paura di questo cane. Non ti preoccupare, non ti farà del male. Tu sei sotto la mia responsabilità. Mi fido di te. Tutti e tre si rallegrarono e iniziarono a camminare verso Brema. Improvvisamente sentirono una voce. Senti questa voce? Sì, qualcuno sta cantando. Laggiù! Guardate, quel gallo sta cantando! Potrebbe far parte della nostra band! Tutti e tre raggiunsero il gallo. Volevano proporre al gallo di unirsi alla loro band e viaggiare con loro verso Brema. Quando sai che è l'ultimo giorno è meglio cantare, sai? Quando sai che è l'ultimo giorno! Ciao, gallo! Canti così bene! Senti, vorresti... Desidero tanto sentire queste parole dal mio padrone, ma ahimè sarò bello e cotto in una zuppa calda prima che accada. È il mio ultimo desiderio cantare il più possibile prima dell'ultimo respiro. Quindi queste canzoni... Guarda qui! Penso che questo cambierà la tua vita per sempre! Sul serio? Pensi di poter fare qualcosa? Certamente! Vieni con noi, tu sarai il nostro grande cantante. Che ne pensate, ragazzi? Sì. Sì, certamente! Grande, sono pronto! Sì, andiamo! Accordato tutto, il gruppo felice marciò verso Brema cantando insieme. Noi stiamo andando a Brema! Noi siamo i musicanti di Brema! Tutti e quattro camminarono per qualche miglio, ma si stava facendo notte e avevano paura di non vedere nessuno se non loro stessi e udirono degli strani rumori nella notte. Molto presto notarono una luce e decisero di andare verso essa. Sono abbastanza sicuro che deve viverci qualcuno. Amici, possiamo trascorrere qui la notte e riprendere il nostro viaggio domani mattina. Questa oscurità mette i brividi. Saremmo dovuti partire un po' prima. Finalmente arrivarono in casa e cominciarono a guardarsi intorno. L'asino, che era il più alto di tutti, andò dritto alla finestra e cominciò a sbirciare dentro. Vedi se c'è un po' di cibo per noi. Cosa vedi, amico mio? È sicuro lì dentro? Cosa c'è? Dai, dimmelo! L'asino, dopo aver guardato intorno alla stanza, iniziò a parlare. Wow! Amici, ma che bel posticino! C'è un tavolo pieno di deliziosi piatti e bevande! Un sacco di soldi, molti gioielli, pietre preziose, che meraviglia! Asino, c'è un modo per mangiare un piccolo pasto. Amico mio, sono veramente molto affamato. Noi saremo i musicanti di Brema, ve lo assicuro, ne sono certa. Questa è per noi una grande occasione. Come faranno a sapere che siamo i grandi musicanti? Dovremmo cantare una canzone? Questa è davvero un'ottima idea! Dai, cantiamo la nostra migliore canzone, così loro saranno i nostri primi spettatori! Così l'asino si mise in posizione e si fermò accanto alla finestra. In cima a lui si mise il cane, in cima al cane saltò il gatto e in cima al gatto volò e si sedette il gallo. Una volta che l'asino diede il segnale, tutti e quattro diedero il loro meglio e cominciarono insieme a cantare. L'asino ragliò, il cane abbaiò, il gatto miagolò e il gallo invece cantò. Noi siamo musicanti di Brema. Cantarono così forte che il vetro della finestra si frantumò. Questo deve essere stato un fantasma. Ti ho detto che questo fosse infestato. Andiamo, andiamo! Tutti e tre i rapinatori velocemente fuggirono in preda alla paura. Avendo questa grande opportunità, l'asino, il cane, il gatto e il gallo entrarono all'interno della casa. Erano come in una festa di galà, con tutto quel cibo e quelle ricchezze. Non riuscivano a credere ai loro occhi e alla fine la loro fortuna si trasformò dal nulla in una casa con un sacco di cibo e denaro da spendere. Oh. Amici, ora spegniamo le luci. E facciamo un bel pisolino! Domani mattina dobbiamo continuare il nostro lungo viaggio! Andremo a Brema! Ma davvero dobbiamo andare via da questo posto? C'è tanto buon cibo e denaro! Amici, noi non dobbiamo fare nulla per molti anni! Tu solo questo hai in mente! Anch'io penso lo stesso! E io sono d'accordo. Ci penseremo. Dai, amici, dormiamo un po'. È stata una lunga giornata. L'asino dormì su un mucchio di paglia, il cane dietro la porta, il gatto vicino al focolare e il gallo sulla sommità del tetto. I ladri non erano molto lontani. Si voltarono indietro per vedere se le luci erano ancora accese. Pensarono che il fantasma avrebbe potuto lasciare la casa. Voi, andate a controllare se il fantasma è ancora in casa. Perché io? Penso che dovresti mandare qualcun altro. Qualcuno che sia più forte di me. Che vigliacco sei. Avrei controllato volentieri io stesso. Ma lo vedi? La mia caviglia è slogata. Ora vai, oppure sei fuori da questa banda per sempre. Va bene, vado a controllare. Il ladro esitante camminò verso la casa. E non appena fu vicino, prese il coltello e lentamente aprì la porta. Egli vide gli occhi brillanti del gatto e pensò che fossero delle fiammelle. Ah, questa deve essere una fiammella. Lascia che prendo questa candela. Il gatto, in preda alla paura, si lanciò verso il ladro e gli graffiò il volto. Il rapinatore non capì cosa stesse accadendo e si precipitò verso la porta. Il cane da dietro la porta lo spaventò mordendogli la gamba. Oh mio Dio! Lo spirito è ancora qui! I guai del rapinatore non erano ancora finiti. Mentre correva dalla paura verso la sua banda, ricevette un calcio dall'asino e fu certo che il fantasma in realtà era ancora nella casa. Il gallo invece cantò molto forte. Gabu! Gabu! Il fantasma non è andato via! È ancora lì! Mi ha graffiato con le mani, mi ha morso sulla gamba e mi ha dato un forte calcio! Rideva anche stranamente alla fine! Dobbiamo fuggire da questo posto! Potrebbe essere alla ricerca degli altri membri della banda! Corriamo! Via, via, via, muovetevi! Così i ladri lasciarono il posto per non tornare mai più. E i quattro animali decisero di sistemarsi nella casa per un po', perché c'era abbastanza cibo e denaro per vivere a lungo. Acquistarono degli strumenti e un carro per il loro viaggio. Si esercitarono ogni giorno fino a quando l'asino pensò che fossero assolutamente perfetti per eseguire il loro brano. Era giunto il momento di andare avanti. Ragazzi, ho deciso, penso che sia meglio andare a Brema e mostrare il nostro talento. Che ne pensate? Sì! Sì! Sì! Tutti caricarono i loro strumenti musicali nel nuovo carro e si diressero direttamente a Brema. Che spettacolo! Tutti e quattro sembravano grandi musicisti. Si diressero verso la sede del festival e iniziarono a suonare alcuni dei loro brani originali preferiti. Persone provenienti da tutto il mondo si riunirono per ascoltare la loro musica. Il pubblico applaudiva la band con tanto entusiasmo. Vissero lo spettacolo e divennero ricchi e famosi. Tutti i loro sogni si erano avverati. Giravano tutto il mondo con i loro spettacoli. E tutti vissero felici e contenti.